fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte, fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi, non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:08 minuti, con un moderato ritardo comincia Radio Possum. Oggi in versione al maschile, visto che per 3 settimane abbiamo avuto in versione al femminile. Ma le abbiamo cacciate. No, non le siamo ripresi la trasmissione. Anzi, se ci sentono le nostre compagne di trasmissione, lì diciamo che non le vogliamo più, va bene. Anzi no, meglio di no, se no ce la dobbiamo accolare. Se no poi ce la dobbiamo accolare, per no, carità. No, stavo scherzando. Anzi, rimpiangiamo le settimane scorse, che quella trasmissione era bellissima. Vi vogliamo bene, vi vogliamo bene. Di che parliamo questa sera? Stasera, a quasi più o meno, giorno più giorno meno, un mese dalla famosa occupazione del Dipartimento di Farmacia di Milano da parte degli attivisti del confinamento Fermare Grille e alla conseguente liberazione di un coniglio e centinaia di roditori, torniamo sull'argomento sentendo un attivista del coordinamento per fare un po' il punto della situazione, novità, la situazione degli animali e anche eventualmente se ci sono, speriamo di no, chiaramente conseguenze legali per gli attivisti che hanno fatto l'occupazione, 4-5 persone erano. E niente, parliamo un po' con lui di quello che è successo, di quello che sta succedendo e soprattutto di quello che succederà, quindi in prospettiva nuove iniziative contro la sperimentazione animale e via dicendo. Mercoledì 29 maggio, CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle. Se odi il carcere, vieni a cena e dacci una mano a sostenere Scarceranda. L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. In occasione della settimana mondiale per l'abolizione della carne, cena vegan. Menù della serata, linguine antidomandine. Risotto antispecista, umano primo della lista. Patate novelle, tutte le specie soribelle. Verdure a caponata e la pecora seddata. Rustico dimisticanza. Mai più animali nella mia panza. A seguire dibattito su allevamenti intensivi, gabbie, liberazione animale e liberazione umana. Proiezioni video a cura di Radio Possum. A seguire DJ Set. Mercoledì 29 maggio, CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, Centocelle. Info www.ondarossa.info/scarceranda, www.fortepremessino.net. Perché il carcere nuoce gravemente. Allora, siamo in diretta con un compagno del coordinamento Fermare Green Hill. Ciao, ci senti? Sì, ciao. Ciao. Senti, volevamo... No, un mese fa c'è stata l'occupazione del Dipartimento di Farmacologia, no, dell'Università di Milano, in seguito alla quale poi voi siete usciti portando via centinaia di animali. Volevamo fare un po' il punto, partendo insomma, diciamo, dal riassunto di questo mese, com'è andata, che sensazioni avete avuto, e anche se poi ci dici un po' gli animali, quanti sono stati dati in affido, quanti ancora rimangono da dare in affido, perché comunque si parla di centinaia di roditori, che chiaramente non è che possono essere tenuti tutti da una persona in una casa. Sì, vabbè, il riassunto del mese è abbastanza pregno di cose, perché comunque, come molti sapranno, questa azione ha generato una grande risposta da parte del mondo della ricerca, dei ricercatori, e quindi anche da parte nostra siamo stati molto attenti a seguire questo evolversi della situazione. Evidentemente abbiamo toccato un nervo forte, che è andato a stimolare una reazione, come dicevo, poi non solo in Italia ma anche all'estero. Si sono mobilitati ricercatori in tutto il mondo con petizioni, mail di protesta, indignazione, articoli su tutte le riviste, e qua in Italia si è attivata particolarmente dopo questa azione l'associazione Protest, che è un'associazione di ricercatori a favore della ricerca, e che esiste in altri due paesi, che sono l'Inghilterra e gli Stati Uniti. L'Italia è il terzo paese nel mondo dove nasce, e questo è un chiaro segnale, un segnale che in Italia la lotta alla vivisezione sta incidendo molto, e quindi si stanno mobilitando anche da parte loro con giornate di proteste in piazza, volantinaggi, conferenze, eccetera. E da parte nostra in questo mese abbiamo passato molto tempo ad analizzare i protocolli che abbiamo, diciamo, visionato e documentato all'interno del laboratorio, a prenderci cura degli animali, dei roditori, e cercare la loro adozione e organizzarci anche per future iniziative. Come chiedevate, appunto, noi roditori sono tutti i topi, stanno bene. Sì, scusate, ti interrompo. No, anche riguardo agli animali, perché poi sono girate parecchie cifre. C'è chi parla, c'è sui giornali, sui media, sì. Abbiamo letto di 10 conigli, un coniglio. Ci puoi dire più o meno esattamente il numero degli animali che siete riusciti a portare via e il numero degli animali che è ancora dentro e che poi dovreste prendere secondo l'accordo con il dipartimento? Sì, allora, sono usciti un coniglio che ha trovato casa immediatamente appena uscito da un attivista di Torino che conosciamo, e poi inizialmente abbiamo detto che erano circa, pensavamo 200 topi, poi abbiamo detto ma sì, saranno 300, poi in realtà si sono rivelati, perché si sono subito dislocati in varie case, al momento del conteggio erano più di 400, si arriva quasi a 500, quindi tantissimi, ed è anche per questo che non sono stati ancora piazzati tutti, non tutti hanno una casa, e ovviamente, come dicevate, non è che ognuno si può prendere tantissimi topi in casa, questo soprattutto perché i maschi adulti non difficilmente stanno insieme tra di loro, ovviamente non possiamo mettere maschi e femmine per motivi di accoppiamento e riproduzione, e noi gli diamo o maschi o femmine, il problema è che sono tantissimi maschi singoli che appunto una persona può prenderne solo uno, perché i topi, per chi li conosce, quando due maschi stanno in uno spazio ristretto e poi si crea un odio, arrivano veramente a farsi del male. Quindi questo rallenta tantissimo le adozioni, perché ogni persona gli possiamo dare spesso solo un animale. E ne rimangono adesso però non tanti, ne rimangono nell'ordine di poche decine che cercano casa, quindi stiamo spingendo ancora per trovare una nuova vita a questi animali che sono fantastici e abbiamo con noi e stiamo conoscendo. Invece quanti sono quelli che in teoria sono ancora prigionieri negli stabulari e che dovreste prendere? Poi magari questo argomento del se il dipartimento manterranno le sue promesse lo affrontiamo più nel dettaglio, però. E poi ti volevamo chiedere anche voi questi animali in che condizioni, cioè quali condizioni di salute, diciamo, avete riscontrato, ferite, stress, sì, e comportamenti stereotipati e via dicendo. Ma guarda, parlando subito di quelli usciti, rimanendo su questi, abbiamo trovato una cosa che potrà sembrare assurda o inverosimile, ma il coniglio era pieno di acari e di pulci, e poi ci imputano a noi di aver rovinato un ambiente asettico e di aver portato in un ambiente esterno animali che sarebbero morti immediatamente perché abituati in un ambiente sterile. Molti dei topi avevano la rogna, quindi si parla di acari della rogna, e hanno avuto vari problemi, molti avevano problemi al pelo, ma già dentro erano stati filmati e fotografati con questi problemi al pelo, alla schiena. Noi pensavamo una semplice dermatite, invece si è rivelata una rogna che stiamo curando. E per quanto riguarda quelli all'interno, non abbiamo il numero preciso, perché le persone, 5 persone che si sono chiuse dentro i stabulari, hanno provato a contarli tutti i topi, ma erano veramente tantissimi. E la situazione, ovviamente, come potete immaginare, era abbastanza caotica, tra delle contrattazioni, la protesta fuori, dover uscire di corsa. Però si parla di altri 1.000-1.500 topi e altri 17 conigli che sono lì dentro e su cui stiamo trattando. A detta dell'università, ancora pochi giorni fa hanno assicurato al 100% che ce li danno, solo che ci sono adesso dei problemi burocratici non da poco, perché si è intromessa l'ASL, si è intromesso il ministero e vogliono che questi animali escano solo con delle garanzie, con dei fogli certificati che non gli sono stati inoculati, diciamo, dei batteri o delle malattie. Quindi ogni ricercatore deve fare un suo foglio, un suo protocollo, e quindi ciò sta rallentando tantissimo. Non sappiamo ovviamente se questo è solo un modo per prenderci in giro. Noi abbiamo dato un ultimatum che scadrà a breve, in questi giorni, e poi invece ci faremo sentire con anche delle proteste se non ci liberanno. Senti, dal punto di vista dei protocolli che avete, che tipo di esperimenti venivano fatti su questi animali? Non so se di tipo farmacologia, psicologia e via dicendo, insomma. Ma guarda, molti degli animali erano del CNR, quindi un Consiglio Nazionale delle Ricerche che operava all'interno, altri dell'Istituto di Farmacologia. Su tutti i giornali sono uscite notizie di esperimenti su Alzheimer e disturbi neurologici come l'autismo oppure altre malattie, la SLA per esempio, che avremmo interrotto e noi avremmo condannato a morte chissà quante persone, con la solita retorica dei ricercatori. Ma guardando i protocolli si scopre che una buona parte degli esperimenti condotti all'interno di quel dipartimento su quegli animali erano, per esempio, su droghe leggere, droghe pesanti, nicotina, recettori nicotinici che comunque sono collegati all'utilizzo di nicotina, e anche gli esperimenti condotti in ambito veramente su quelle malattie che ovviamente usano sui media per creare l'emotività nelle persone. Quegli esperimenti sono esperimenti che anche dalla comunità scientifica, per esempio quelli sulla SLA, vengono condannati apertamente da un grosso numero di ricercatori, perché sono assolutamente inutili come modelli topi, per esempio. E quindi, cioè, comunque vedere questi protocolli ci ha dato anche ci dà la possibilità di smascherare la solita menzogna che loro spacciano professandosi salvatori dell'umanità, e quando invece si continua a uccidere animali, per esempio, per testare droghe leggere o droghe pesanti, eccetera. E quindi si parla di esperimenti assolutamente inutili, assurdi, e che potrebbero essere eliminati da un momento all'altro, ma che, guarda caso, nemmeno nessun ricercatore di questi, come proteste che vanno in piazza a dire che la sperimentazione serve per salvare l'umanità, nessuno di questi mai dice sì, alcuni esperimenti dovremmo eliminarli subito, invece difendono la spada tratta a qualunque utilizzo di animali, anche il più insensato, il più violento, eccetera. Senti, voi avete altre iniziative nei prossimi giorni per continuare appunto a parlare di questo tema, al di là del fatto che appunto ci hai detto che aspettate che scada l'ultimatum prima di ricominciare a protestare, diciamo, sì, riguardo gli accordi presi, ma anche rispetto appunto alla situazione degli attivisti che comunque hanno problemi insomma, che sono stati denunciati, eccetera, oppure anche di informazione. Renderete pubbliche queste informazioni in qualche modo? Insomma, avete iniziative in questo senso che state costruendo? Sì, dai, in realtà avevamo messo scolato prima di menzionarlo. Comunque, una cosa importante per noi era questo dibattito all'università statale, che è stato annullato dagli settori pochi giorni prima, E per noi era importante perché era un momento in cui noi volevamo veramente confrontarli davanti alle persone, davanti alle telecamere, e portare le menzogne che dicono davanti a tutti. E ovviamente questo è saltato. Avremo un altro dibattito a Senigallia, sempre con, diciamo, la parte avversa, perché adesso loro cercano di difendersi, ma noi non ci tiriamo certo indietro nell'andare a dire le nostre idee dal punto di vista etico, e coadiuvati in questo caso anche da una persona che parlerà della falsità scientifica della vivisezione. Poi i nostri argomenti sono prettamente etici, ma in realtà poi quello che come iniziative stiamo pensando a breve, in questi giorni usciremo con un dossier sugli esperimenti fatti dentro farmacologia, e per l'8 di giugno, in concomitanza con una giornata nazionale organizzata dai ricercatori, che si chiama una giornata contro la disinformazione scientifica, faremo anche noi dei volantinaggi, delle iniziative, faremo una protesta proprio davanti alla sede di farmacologia, quella proprio per chiedere la liberazione degli ultimi animali prigionieri, e per far parlare di nuovo di cosa accade lì dentro, e dire che la vera disinformazione scientifica non la facciamo certo noi, ma la fanno quelli che nascondono gli esperimenti dietro alle mura, dietro al segreto, e che non vogliono che la gente sappia, e che loro in questi giorni stessi stanno dicendo la gente non deve sapere cosa accade nei laboratori. E queste sono solo alcune delle varie iniziative che abbiamo in mente. Faremo anche delle presentazioni, dei benefit, comunque tutto in programmazione. Per l'estate avremo alcune iniziative, probabilmente forse anche qualcosa su Roma che stiamo pianificando ancora. Senti, facendo un passo indietro, o meglio andando un po' più sul generale, dopo un mese di distanza, l'impressione da parte della reazione, non tanto della comunità scientifica, che era prevedibile insomma, ma la reazione complessivamente dell'opinione pubblica e anche per esempio del mondo politico, che di solito si schiera sempre a favore della ricerca, stavolta è stata abbastanza silente. Non mi sembra ci siano state grosse posizioni, prese di posizione da parte dei politici per esempio contro quell'azione, non so, almeno a livello nazionale, poi a livello regionale, locale in Lombardia, però anche le reazioni dell'opinione pubblica in generale e via dicendo. Che cosa avete riscontrato? Qual è la vostra impressione insomma? Ma guarda, valutarla è un po' difficile, perché comunque ovviamente rispetto a casi precedenti, possiamo pensare al caso di Green Hill, la liberazione dei Beagle, e comunque tutto il caso che ha coinvolto quei cani, ovviamente l'opinione pubblica era completamente schierata dalla nostra parte. In questo caso, parlando di roditori, di topi, di conigli, ovviamente è più difficile scalfire un muro di, diciamo, insensibilità o comunque di non conoscenza, e andare a trovare l'appoggio di persone non dell'ambiente, diciamo, comunque non già sensibili. Però comunque abbiamo notato un grosso interesse, abbiamo visto che il supporto è stato forte dal punto di vista mediatico e politico. Invece ovviamente il clamore di questa azione poi ha dato molto spazio in più ai ricercatori, alle loro risposte, cosa che di solito non veniva dato. Insomma, con il caso Green Hills, chi ha seguito anche un po' la vicenda sui media, di solito la voce dei settori era veramente quasi inesistente. In questo caso loro si sono prodigati molto, e dal punto di vista politico in realtà comunque non hanno ottenuto molto appoggio, se non da qualche sparuto sostenitore della sperimentazione che si esprime sempre. Però comunque non hanno avuto tutto l'appoggio che volevano. Quindi noi valutiamo comunque positivamente l'azione, valutiamo positivamente soprattutto come attacco diretto al sistema della ricerca, e far capire che quei laboratori sono violabili, e che ciò che noi vogliamo è soprattutto questa, cioè far capire, far vedere, far conoscere cosa accade agli animali. E questo spaventa tantissimo il mondo della ricerca. E sappiamo che riusciremo comunque ad avere, speriamo di avere sempre un buon appoggio anche dalla cosiddetta opinione pubblica. Senti, un'altra domanda, questa volta passando a Green Hill, novità sull'allevamento, perché poi tra l'altro mi sembra recentemente la magistratura ha confermato il sequestro probatorio o preventivo, uno dei due adesso non ricordiamo esattamente, però novità insomma, siete novità su Green Hill, sull'azienda Green Hill, e sicuramente sul destino dei cani sotto sequestro e via dicendo. Sì, le novità sono che anche il Tribunale di Brescia ha confermato il sequestro preventivo, quello probatorio non era mai stato tolto. Il probatorio è quello a fini di ricerca delle prove, quello preventivo è per prevenire il seguirsi di altri reati, quindi altri maltrattamenti su questi cani, il che è comunque un sequestro più forte rispetto al probatorio. E le altre novità sono che adesso a giugno dovrebbero essere mandati in mobilità, quindi licenziati, 15 dei 17 dipendenti dell'azienda, che nell'ultimo anno ha perso 1.700.000 euro. Questo è il bilancio 2012-2013 di Green Hill, e crediamo che sia per noi estremamente positivo. I 2.700 cani liberati stanno tutti bene, sono tutti nelle loro famiglie, ambientati, e non torneranno mai né in quel lager né nei laboratori, e sicuramente ognuno di loro negli anni futuri sarà un testimone di ciò che è la vivisezione, ciò che è stata questa campagna. Quindi è un modo per espandere a raggio in maniera incredibile il nostro messaggio, perché ogni proprietario nel corso della sua vita parlerà di ciò che spettava e ciò che sarebbe successo a quel cane. Quindi liberare gli animali è sempre uno dei modi più belli e più importanti per portare avanti un messaggio, perché loro sono dei testimoni dell'orrore, dei portavoce poi della libertà. Senti, per chiudere volevamo chiedervi se ci sono in programma di segnalarci, insomma, magari iniziative benefit, perché immaginiamo che sia da un certo punto di vista per le spese legali degli attivisti. Anzi, ti volevamo chiedere anche se facevi una piccola puntualizzazione su questo, cioè se le persone che hanno partecipato all'occupazione in prima persona del dipartimento hanno avuto conseguenze legali, sia anche magari spese per il mantenimento degli animali che in tutte queste settimane comunque avete avuto almeno per una prima fase voi, e se è da segnalare insomma iniziative benefit che siamo ben contenti di diciamo così tra virgolette pubblicizzare qua in radio. Ma al momento non ne abbiamo con date fissate, appunto come dicevo prima stiamo fissando alcune serate e alcuni eventi benefit nell'estate, che però di cui ancora non abbiamo le date. Invitiamo tutti a seguire comunque il nostro sito fermaregreenhill.net oppure la nostra pagina Facebook che è Contro Green Hill, e a breve lanceremo delle date. Ovviamente chi volesse sostenere le spese legali, che saranno molto alte, e chi vuole aiutarci con le spese per aiutare appunto mantenere questi animali è benvenuto, e soprattutto invitiamo a organizzare dei benefit che sono dei momenti importanti, perché sono dei momenti di solidarietà, dei momenti dove si dimostra di essere uniti, sostenere chi ha dei problemi legali e chi e le cause che lo meritano. Quindi chi volesse ci contatti ed è ben accetto. Per il resto comunque comunicheremo appena possibile alcune date. Va bene, allora ti ringraziamo per il contributo, e poi chiaramente se ci sono novità risentiamoci, insomma noi siamo sempre molto disponibili e felici di ospitare i vostri contributi. Grazie a voi come sempre. Grazie, ciao. A te per la disponibilità, ciao, buona ciao sera. Un abbraccio, buonanotte, ciao. Mettiamo una canzone e poi ripartiamo. Fica la luz. Mercoledì 29 maggio, CSUA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle. Se odi il carcere, vieni a cena e dacci una mano a sostenere Scarceranda. L'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno. In occasione della settimana mondiale per l'abolizione della carne, cena vegan. Menù della serata, linguine antidomandine. Risotto antispecista, umano primo della lista. Patate novelle, tutte le specie sono ribelle. Verdure a caponata e la pecora seddata. Rustico di misticanza, mai più animali nella mia panza. A seguire dibattito su allevamenti intensivi, gabbie, liberazione animale e liberazione umana. Proiezioni video a cura di Radio Possum. A seguire DJ Set. Mercoledì 29 maggio, CSUA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, 100 celle. Info www.ondarossa.info/scarceranda, www.fortepremessino.net. Perché il carcere nuoce gravemente. E allora questo spottino non è che l'abbiamo messo a buffo, come diciamo noi giovani. Quindi non sto parlando di te, chiaramente. L'abbiamo messo perché mercoledì ci sta una cena a sottoscrizione per Scarceranda, organizzata da, come quasi tutte le cene di Scarceranda, da Radio Onda Rossa e dal Forte Prenestino, e in questo caso anche da una collaborazione stretta tra Radio Possum, la redazione di Radio Onda Rossa e il Forte Prenestino, visto che cade nella settimana per l'abolizione della carne. Appunto, abbiamo deciso di come si dice, rendere tematica la cena, di unire un po' i due argomenti, carceri per umani e carceri per animali non umani. E quindi sì, ci saranno appunto dibattiti e proiezioni video proprio sul tema gabbie per animali umani, gabbie per animali non umani, un po' ripercorrendo la strada che avevamo già intrapreso a gennaio, quando avevamo fatto un'altra cena per Scarceranda al Casale Alba 2, anche a novembre. Sì, no, mi stavo confondendo. Sappiamo tante di quelle iniziative con questa mondana. Vita mondana frenetica. E soltanto che questa volta, appunto, caratterizzando la discussione però in particolare sugli allevamenti da cibo, visto che comunque una delle ragioni per cui gli animali vengono resi oggetti, anzi forse la ragione più eclatante, principale, sì, esatto, è quella che gli animali sono oggetti perché diventano cibo. Insomma, c'è l'albero delle bistecche, e c'è appunto anche proprio tutto un discorso su come dire, l'immaginario che c'è riguardo la carne o i prodotti di origine animali, una serie di luoghi comuni, false verità che vengono raccontate e che si autoalimentano anche come giustificazione molte volte. Mi viene in mente per esempio tutte le volte che dico che sono vegano, le persone poi mi dicono: ah, però le mucche gli fanno male le tette se non le mungi. Io vabbè, alzo le braccia perché l'ho detto un miliardo di volte questa cosa, e mi viene sempre da chiedere se qualcuno ha mai visto un bambino che è un mammifero esattamente come una mucca, se qualcuno ha mai visto un bambino che non si mangia il latte della mamma, e la mamma che soffre perché appunto non ha un bambino che appunto beve il latte della mamma. E la stessa cosa vale anche per le mucche, insomma, se vogliamo bere il latte delle mucche vuol dire che non se lo beve il vitellino, quindi il vitellino lo macelliamo, lo alimentiamo con così finti latti artificiali che vengono dati anche poi con una serie di squilibri a livello nutrizionale per rendere la carne migliore, quindi spesso vengono resi anemici. Sì, ricordiamo che negli allevamenti, soprattutto negli allevamenti intensivi, i vitelli vengono tolti dopo pochissime settimane alla madre, vengono tenuti in gabbie separate, alimentati con pastoni e cose assolutamente artificiali, e poi vengono destinati al mattatoio quando hanno ancora pochissimi mesi, insomma. Comunque l'obiezione più sconcertante che ho sentito in generale è quella di chi mi dice: beh, però se non ci fossero gli allevamenti quegli animali morirebbero tutti e si estinguerebbero, che mi sembra giustamente una buona ragione per perpetrare, mi sono imbarcato in parole in parole difficili, perpetrare una condizione di eterna schiavitù, vabbè, comunque. Sì, e poi c'è anche l'obiezione opposta, no? Non so se l'hai mai sentita, quella che dicono. Vero. Ma se noi apriamo gli allevamenti, il mondo viene invaso dalle mucche. Perché come è noto, cioè, alle porte c'è un'invasione di mucche assassine che, insomma, non lo so. È una cosa talmente penosa che uno quando ne parla non sa veramente se ridere o piangere. Ma è una di quelle cose che potrei trovare sul YouTube di uno dei candidati di Beppe Grillo, credo. Queste cose, tipo l'invasione delle mucche assassine. L'invasione, dai, delle mucche assassine, sì. Le famose mucche mannare. Le mucche mannare. Vabbè, comunque vi invitiamo tutti calorosamente a venire mercoledì sera, ricordiamo, al Forte Prenestino, via Del Pino numero... Non lo so, comunque insomma comunque è noto, sì, si trova su internet. Ok, cena, se magna, se beve, se vedono film e poi DJ set contro il carcere e contro ogni forma di sfruttamento. Vai, canzone che dobbiamo allungare il brodo. No, non dire così. Un pezzo bellissimo, tra l'altro, una delle mie canzoni preferite. No. Ma per cortesia, i gusti musicali di Mocio sono terrificanti. Vabbè, questi comunque sono gli Smiths, quindi non è che pizza e figli, eh? Tutta. Questa è How Soon Is Now, una delle più belle. And the sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar. I am sun and air, but nothing in particular. Shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved just like everybody else does. E allora, dopo questa canzone bellissima, nonostante il mio collega qui ma... non apprezza, però vabbè, purtroppo non a se tutti quanti. Ma io ti ho detto i tuoi gusti musicali, ma soprattutto i tuoi gusti televisivi. Nella... non parliamo di questo. Comunque, se gli uccellini sapessero quanto è buono il grano, sai che pasta mangeremo. Sono abbastanza discutibili, insomma, comunque. Va bene, comunque, allora ricordiamo invece, siamo arrivati al punto, al momento della mondanità. La mondanità. Allora, sabato 8 giugno 2013, vi ricordiamo che c'è la manifestazione nazionale contro gli allevamenti di visoni, contro ogni forma di sfruttamento. Anche nella provincia di Bergamo, Antegnate e Misano, stanno per essere aperti due allevamenti di visoni. Il modello situato, proposto dall'AIAV, Associazione Allevatori Italiani di Visoni, e da estendere poi a livello nazionale, consiste nell'integrare l'allevamento da pelliccia ed allevamenti già esistenti, frammenti di una crisi ormai sistemica che amplifica la logica dello sfruttamento animale. Di fatto la crisi si alimenta e si autolegittimano dei disastri che esse stesse generano. La terra, gli animali, umani e non, sono allevati dentro questa catena che assembla e smembra i corpi, pronti ad alleviare e gestire le sofferenze, pronti ad attivarsi per promuovere il presunto benessere animali, pronti a trasformare l'opposizione in oggetto mediatico da riorganizzare, da gestire e da dominare, e così facendo stravolgendo qualsiasi istanza reale di liberazione. Gli amici degli animali accorrono. Una visione d'insieme delle molteplici forme in cui si manifesta lo sfruttamento dell'uomo sugli animali, dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla terra, chiama i sinceri oppositori a riappropriarsi delle parole e del loro senso silenziato, per riscoprire il nostro essere e sentire animale e l'appartenenza alla madre terra, per riscoprire la concordanza tra la parola e l'azione, concentramento al piazzale della Malpensata, all'incrocio tra via Carnovali e via Don Bosco, a 5 metri dalla stazione ferroviaria, Bergamo, alle ore 14, ricordiamo, sabato 8 giugno. Per informazioni l'email è liber.selvadec@autistici.org, che poi che vuol dire bergamasco? Non lo so, li abbiamo sentiti la scorsa settimana in radio, però non so se gli ha chiesto il nome, cosa volesse. Vabbè, per noi ignoranti del sud, sono parole straniere. Comunque, ok, altro appuntamento una settimana prima, sabato 1 giugno a Verona, corteo contro up to it e la vivisezione, appuntamento ore 14:30 a piazza Pradaval, organizzato da Freccia 45, coordinamento Fermare Green Hill e comitato Montichieri contro Green Hill. Leggiamo una brevissima introduzione. Corteo contro Up to It e la vivisezione, sabato 1 giugno a Verona, per dire no alle torture, per i 32 beagle prigionieri, per svelare le menzogne. La vicenda dei 32 beagle arrivati a marzo nei laboratori Up to It, partner di GlaxoSmithKline, che è una delle più grosse multinazionali del farmaco di Verona, ha scatenato una protesta che non si ferma ormai da due mesi. Una protesta che è solo il culmine di un movimento che sta cercando di opporsi in ogni modo alla sofferenza inflitta a 900.000 animali ogni anno nei soli laboratori italiani. Una sofferenza celata, tenuta segreta, ma che sta venendo a galla e sta muovendo un numero sempre crescente di persone. Saremo a Verona per chiedere ancora a gran voce, in un coro unito e forte, la liberazione di questi 32 cani e la fine degli esperimenti su tutti gli animali detenuti nei laboratori Up to It. Rivediamo appuntamento alle 14:30 a piazza Pradaval a Verona. Per informazioni potete vedere il sito fermaregreenhill.net per guardare, insomma, logistica, orari e via dicendo. Voglio mettere un'altra canzone? Sì, mettiamo un'altra canzone, così questo brodo diventa ancora più acquoso. No, perché abbiamo letto cose lunghe, per sì, quello, dai, per spezzare. Yeah! Allora, continuando con gli appuntamenti e gli aggiornamenti, un aggiornamento sui prigionieri e le prigioniere dell'operazione Ardire. Ricordiamo un'operazione contro varie persone di vario titolo, diciamo l'accusa era quella di far parte della Federazione Anarchica Informale. È stata costruita una montatura giudiziaria e sono state messe in mezzo tante persone in tutta Italia. Vi leggiamo gli aggiornamenti. Apprendiamo dagli avvocati che il PM Emanuela Comodi ha fissato la prima udienza preliminare per Alessandro, Giulia e Paola. I compagni sono indagati dalla Procura di Perugia per la presunta cellula perugina della FAI che costruisce l'operazione Ardire assieme all'altra presunta cellula nazionale per la quale sono indagati, oltre ad Alessandro, anche Peppe, Stefano, Sergio, Katia ed Elisa, passati alla Procura di Milano. L'udienza è fissata per giovedì 6 giugno alle ore 11.30 presso il Tribunale di Perugia. Tutte queste righe che vi ho letto sono firmate dalla Cassa di Solidarietà Aracnide, che ricordiamo è una cassa di solidarietà che si occupa appunto di prigionieri politici e che si è formata proprio in concomitanza con le operazioni giudiziarie repressive svoltesi l'estate scorsa. E invece l'ultima cosa, vogliamo leggere una sintesi di un lungo comunicato che è apparso su Informazione e che è stato pubblicato dal Coordinamento per la tutela del Parco di Aguzzano del Casale Alba 2, in realtà che noi conosciamo bene, insomma sono nostri amici, abbiamo organizzato anche un'iniziativa al Casale Alba 2 proprio a gennaio, di cui parlavamo prima. E comunicato sul sopralluogo degli speculatori a Casale Alba 2. Mercoledì 15 maggio ha fatto visita al casale una commissione composta da due tecnici del consorzio Torrino 1, due funzionari comunali del dipartimento del comune, un segretario dell'ormai ex presidente del municipio Ivano Caradonna. Come coordinamento per la tutela del parco di Aguzzano, che è nota mia, è un parco bellissimo nella zona est di Roma, abbiamo quadrante tra la Nomentana e la Tiburtina. Casal dei Pazzi. Abbiamo deciso 5 mesi fa di riaprire e autogestire il casale per restituirlo alla collettività e destinarlo alla sua originaria funzione socioculturale. Il coordinamento, insieme a tutte le persone che hanno attraversato, frequentato, vissuto il casale in questi 6 mesi, non ha remore né timore di mostrare alla luce del sole ciò che è stato creato e portato avanti in questo periodo. Ad oggi sono attivi 10 laboratori e svariate attività. Lo spazio è stato animato da concerti, iniziative, dibattiti, cineforum, presentazioni di libri, mostre fotografiche e tanto altro. E soprattutto si sta sperimentando una nuova forma di autogestione del territorio dal basso, in maniera orizzontale, attraverso l'impegno volontario di coloro che lo vivono quotidianamente, con tutte le criticità riscontrabili in una periferia metropolitana come la nostra. Nessun finanziamento e nessun lucro, bensì l'unico fine di ricreare una socialità che nel tempo si è persa nei centri commerciali, nei pub, nei luoghi di consumo, senza più chiedere per non ottenere nulla, ma iniziando a fare. E niente, vabbè, poi il comunicato continua in risposta chiaramente a questa che è stata un'azione intimidatoria da parte dei soliti speculatori edilizi appoggiati dalla solita amministrazione comunale Sì, perché poi ricordiamo che il casale Alba 2 era destinato a diventare una casa di accoglienza per le madri del carcere di Regina Coeli, quindi era un discorso anche poi su un quartiere costruito attorno al carcere, diciamo che è abbastanza complesso, e che anche sul sito del Casale Alba 2 si possono trovare varie informazioni anche sulla struttura, su a chi era destinata, quali erano i progetti, chi ci lucrava sopra, eccetera eccetera. E va bene, no, noi volevamo dare spazio, uno spazio molto sintetico, perché il comunicato è veramente lungo, lo potete trovare su Informazione nella sezione news recenti. In realtà dovete scendere un po' col mouse perché non si trova più tra le primissime news, ma insomma lo trovate, e volevamo esprimere insomma solidarietà al coordinamento, visto che comunque il problema della speculazione dell'edilizia, della cementificazione a Roma è particolarmente forte, è un problema che ci riguarda tutti noi esseri umani che cerchiamo di vivere il più possibile decentemente negli spazi urbani, che è molto difficile, che riguarda soprattutto gli animali non umani, visto che la cementificazione comporta inevitabilmente la distruzione del loro habitat, e qui parliamo di volpi, di uccelli, anche di cani liberi, di gatti liberi, di insetti, perché no, e di tutte insomma quelle forme di fauna e di flora che vengono spazzate via dal cemento, dalle ruspe degli speculatori edilizi per costruire centri, tutte cose belle come centri commerciali, centri residenziali e via dicendo. sì, e poi soprattutto costruire modelli di città alienanti dove le persone sono sempre più separate le une dalle altre, non esistono forme di socialità che non siano commerciali. Quindi diciamo, sì, no, non mi indicare, non mi fai perdere il filo del discorso. Sì. Perché nel frattempo l'indico Alemanno. Nel frattempo c'è una notizia su Repubblica.it, una news di Alemanno che dice il derby ha distratto, riferendosi al fatto che ha perso le elezioni. Ma comunque non c'è da rallegrarsi proprio di niente, visto che ha vinto Marino, noto vivisettore. Eh sì, vabbè. Comunque al ballottaggio, comunque vada, sarà un successo, nel senso che o vinci un vivisettore o vinci un fascista. Più probabile il vivisettore a vedere queste cifre, ma tant'è. E va bene. E allora vi lasciamo. Prima di lasciarvi vogliamo dare la nostra solidarietà ai giovani punk che sono stati arrestati sabato, e così una parola in solidarietà, vota Gaetano Bresci. Come al solito un saluto e un abbraccio a tutte e tutti coloro che sono privati e private della propria libertà personale. Bresci spara ancora. Siano essi animali umani o non umani. Ciao. Ciao.